140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Come ogni settimana, mano a mano ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Parliamo di musica, ma non solo, nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Fnac, Milano. Un autentico caso, un singolo, un posto per me e una valanga di recensioni favorevoli, senza precedenti per il debutto di Andrea Nardinocchi. Io vengo dal basket, ho giocato tutta la mia vita a basket, volevo fare quello. Ho iniziato a fare freestyle quando avevo circa 16-17 anni. Freestyle è una disciplina che sicuramente ha a che fare col basket e nella quale però c'è espressione. Io, nel ricercare una forma di espressione che non fosse legata necessariamente al vincere o perdere come è il gioco del basket, alla fine mi sono ritrovato a decidere di smettere di giocare e di iniziare a cantare. E anche se non avevo una passione specifica per la musica o per il canto, e per curiosità sono andato in una scuola, ho iniziato a studiare la musica, mi sono appassionato e dopo qualche anno ho iniziato a scriverla e ho iniziato a sviluppare delle mie forme di espressione attraverso la musica, grazie alla Loop Station, che è uno strumento che riproduce in modo ciclico quello che si registra sul momento, che può essere sia una voce che uno strumento. E io sicuramente ho utilizzato sempre solo la voce dall'inizio, perché mi poteva permettere di ricreare l'armonia e l'arrangiamento di un pezzo senza dover imparare a suonare prima il pianoforte o la chitarra. E quando poi ho iniziato a scrivere, ho buttato giù le mie prime idee in forma concreta alla fine del 2010 e dopo pochissimo ho trovato due persone che hanno creduto in me e mi hanno aiutato molto psicologicamente nel continuare a lavorare e imparare a produrre al meglio. E quando ho finito il mio primo prodotto mi sono ritrovato che è piaciuto molto, quindi più o meno il percorso riassunto è questo. Vorrei un posto per me, anche se non c'è. Un posto dove non c'è mai perché. Un posto che mi prende, mi toglie il male di vivere. Mi è piaciuto molto quasi ancora prima di uscire, cioè c'è una grandissima attesa. A te è pesata, ti è incuriosito, secondo te come è stato questo fenomeno? Ti confesso che un pelo mi sento sotto pressione sicuramente, perché mi sembra di stare al centro di uno stadio con gli occhi puntati, però allo stesso tempo senza arroganza dico che comunque sono contento della musica che ho fatto, della musica che ho da parte, e non ho nessuna paura che non possa piacere, perché comunque a me piace, quindi quando un qualche cosa che faccio piace a me io sono già contento, poi ovviamente se piace anche agli altri mi fa ancora più piacere. Nei tuoi testi a chi parli? Perché tu fai parte di una generazione che sta vivendo un momento molto difficile, cioè che si trova ad affrontare l'inizio dell'età adulta in un momento storico completamente diverso rispetto a quello che è capitato alle generazioni precedenti. Sì. Io non parlo a nessuno in particolare nei miei testi, soprattutto non ho la sensazione che sto parlando con le persone. Io nei miei testi ho la sensazione più che altro che sto scrivendo qualcosa per tirarla fuori da me. Lo sto facendo per me e prima di tutto serve a me per stare meglio. E, ovviamente mi accorgo che molte delle mie esperienze sono cose comuni a tantissime altre persone, quindi inevitabilmente mi rendo conto che può sembrare come se io stessi parlando agli altri, a tutti, ma in realtà sto parlando a me, che comunque alla fine è la stessa cosa, perché siamo tutti la stessa cosa, alla fine abbiamo tutti gli stessi meccanismi e magari con forme diverse. Di 26 anni, come vede adesso la discografia tra talent show che lanciano prodotti che durano magari una stagione sola, rete che diffonde musica ed è un altro modo per arrivare, e dischi che comunque non si vendono quasi più? Come hai detto tu, io da, diciamo, tra virgolette, musicista o cantante, come ti pare, da questo vedo sicuramente ad oggi la musica dal vivo come il mio punto di riferimento per avere un ritorno economico in quello che faccio e per poter far sì che questo sia a tutti gli effetti il mio lavoro e la mia sopravvivenza in questo mondo. Quindi a malincuore sono ben consapevole che il mercato discografico non è in buone acque, anche perché quando un qualche cosa è possibile averlo gratis, difficilmente si può pretendere che la gente lo compri. E io di certo non farò mai il discorso morale a nessuno che è giusto o sbagliato comprare la musica piuttosto che scaricarla anche da YouTube. Io dico semplicemente che c'è una netta differenza di qualità all'interno del prodotto tra lo scaricarla e l'averla in modo originale. Questo sicuramente è un messaggio che io posso dare, ma perché io come utente in prima persona me ne sono accorto, non perché se non compri la mia musica è sbagliato, perché io ho lavorato. Io non posso pretendere che le persone facciano quello che io in primis non ho sempre fatto, quindi. Ma giochi ancora ogni tanto a basket? Sì, spesso, l'estate soprattutto, vado sempre al campetto. Teatro dell'Elfo, Milano. Dal 10 al 16 dicembre il festival che unisce bianco e nero. Sulla neve di Courmayeur, il Noir in Festival. Le anticipazioni da Marina Fabbri. E come sempre è un sacco di cose, molto misteriose, molto emozionanti, molto coinvolgenti, molto serie, ma anche molto divertenti. Cioè, ci piace mescolare le carte, il genere si presta a parlare delle paure, ridere un po' delle proprie paure, riflettere sulle cose importanti. Quindi letteratura, per sentire le ultime novità dei libri, molti autori americani, stranieri, ma anche molti italiani, un premio letterario, il premio Scerbanenko per il miglior noir italiano, un premio alla carriera, un grande come lo scrittore americano Don Winslow, che ha scritto un libro da cui Oliver Stone ha tratto il film che è in questi giorni proprio in sala, Le Belve, e che racconta del rapporto tra l'America e la mafia. Solo perché vi racconto questa storia non vuol dire che alla fine io sia viva. Questa è una di quelle storie. Ogni azienda di successo ha un grande passato alle spalle. Ben ha preso due lauree a Berkeley, in marketing e in botanica. È la migliore erba del mondo. Ben teneva il 99% della violenza fuori dagli affari. E l'altro 1%? A quello pensava John. Ragazzi, il vostro è un lavoro pulito. Ma il cartello si sposta al nord. Vogliono un bene John Point nella corsia 3. Vi amo, ragazzi. Saremo noi tre ora. Eh sì, sto con tutti e due. La mafia messicana, ma anche la mafia... Quindi la mafia a noi ha fatto scattare alcune lampadine. Cioè, è un tema che forse ci riguarda. E ci riguarda e come? E infatti, noi e la mafia sarà il tema dell'incontro, quello serio, in cui cerchiamo di capire come si è trasformata la criminalità organizzata che ci portiamo dietro dall'inizio del nostro vivere civile, diciamo, da quando esiste l'Italia, come la possiamo combattere, come è stata raccontata dal cinema, dalla letteratura. Poi abbiamo i film, ovviamente i film importanti come l'anteprima assoluta di Hitchcock, il film che vede Anthony Hopkins come protagonista, del grande regista che ha fatto veramente grande il nostro genere, che noi consideriamo come il nume tutelare del genere thriller noir. Poi anche molti film italiani, quest'anno abbiamo ben 3 film italiani che siamo felici di presentare, perché crediamo che insomma il genere abbia un futuro anche nella cinematografia nostrana. Ci sono molti buoni talenti, soprattutto talenti di scrittura di cinema, che vengono proprio dalla scrittura letteraria. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Un ospite d'eccezione nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Goigest, ufficio stampa, Milano. A gennaio, 10 anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber, ora il più grande tributo a un artista dal mondo della musica italiana, la figlia Dalia Gaberschik. Io sono convinta che le cose che mio papà ha scritto siano attualissime, per cui il fatto di poter ricordare questo anniversario è anche l'occasione per divulgare ancora una volta il suo lavoro, che è l'obiettivo principale della fondazione. Le iniziative previste sono tante, questa del disco che apre un po' le celebrazioni è un'iniziativa particolarmente ambiziosa, perché poi strada facendo è diventato forse il più grande tributo che sia mai stato realizzato. Parliamo del disco, i nomi li sveleremo in settimana, lasciamo ancora un po' di suspense, però è un progetto grandissimo, io direi che è un progetto che non è mai stato fatto in questo modo in Italia. Credo proprio di no, devo dire che sono molto felicemente sorpresa, perché fare il bilancio di questi 10 anni ha significato ritrovare nella memoria delle collaborazioni veramente molto affettuose di persone che hanno detto io ci sono, proprio come il titolo del disco dice, per affetto, per amore, per stima autentica nei confronti di mio papà. Questo insomma mi inorgoglisce e credo che gli farebbe molto piacere. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. 50 canzoni, 50 cantanti, le canzoni sono state interpretate apposta per il disco o erano registrazioni che esistevano già? Un po' e un po', nel senso che è il consuntivo di questi 10 anni di lavoro. Diciamo che le collaborazioni con questi artisti sono tutte nate durante le nostre iniziative. Alcuni hanno scelto di riproporre esattamente l'esecuzione che avevano già fatto, quindi dal vivo, ma moltissimi hanno rifatto il pezzo, sono andati in studio, lo hanno risuonato, lo hanno ricantato, per cui questi 50 brani di mio papà sono in qualche maniera tutti inediti, tutti nuovi, perché non sono mai stati incisi. Quando è moda, è moda. Quando è moda, è moda. Quando è moda, è moda. Quando è moda, è moda. Non so cosa è successo a queste facce, a questa gente. Se sia solo un fatto estetico o qualche cosa di più importante. Se sia un mio ripensamento o la mia mancanza di entusiasmo. Ma mi sembrano già facce da rotocalchi o da ente del turismo. Quando è moda, è moda. La Fondazione Gaber fa tante cose, fa un festival, abbiamo parlato già in passato di iniziative che hanno coinvolto anche i ragazzi e che questa è una cosa molto importante. Quali sono le attività che state portando avanti adesso? Ma una delle cose che mi fa più piacere e che insomma mi sorprende anche che facciamo solo noi, tra le tantissime fondazioni che esistono in Italia, compresa la Fondazione Montanelli, noi andiamo nelle scuole grazie ad un protocollo che abbiamo firmato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca. Andiamo nelle scuole superiori grazie alla disponibilità di Andrea Pedrinelli, che propone proprio ai ragazzi delle lezioni spettacolo con il corredo di filmati e che va a prendere un pubblico che per ragioni anagrafiche non può conoscere mio papà e che ne rimane davvero entusiasta. Quest'anno arriveremo a toccare i 20.000 studenti che hanno avuto questo tipo di lezione nella loro scuola e ci sembra un'attività importante da continuare a fare. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tanto più che i messaggi di quello che ha scritto sono sorprendentemente attuali. Sì, non si capisce se è solo merito suo o se è anche demerito del fatto che non stiamo andando molto avanti. Con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città. Milano, siamo a Milano, ha omaggiato abbastanza Giorgio Gaber. A me piacerebbe un giorno, non so, dire a un tassista: mi porti in piazza Gaber. Piacerebbe molto anche a me. È stata fatta una titolazione di una via non molto importante, ha una caratteristica che mi piace moltissimo, che è quella di incrociare la via De André, però non è una via centrale. Io ho la sensazione che non sia mai abbastanza il valore che le città danno ai propri cittadini illustri. Io credo che Milano sia orgogliosa di aver avuto un figlio come Giorgio Gaber. Al suo funerale il 3 gennaio del 2003 c'erano 30.000 persone a Milano che sono intervenute, insomma, ed era una data anche non particolarmente facile, quella del 3 gennaio, quindi ho la sensazione che sia un legame vero quello tra mio papà e questa città. Io sono fiduciosa, spero che qualcosa possa succedere. Ma io ci sono, io ci sono, io come persona ci sono, io come persona ci sono ancora, io con la mia fede ci sono, io con la mia fede ci sono ancora, io come donna uomo ci sono, io come donna uomo ci sono ancora. Intanto ti do un appuntamento, il 9 novembre alle 9, lo mettiamo così, il 9 novembre alle 21 vieni in radio, vieni a Radio 24, ascoltiamo insieme un po' del grande tributo, ne parliamo insieme, quindi diamo l'appuntamento agli ascoltatori, ci sarai, tu ci sei, io ci sono. Io ci sono. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.